Scrivo da un posto dove non c'è nessuno, solo silenzio e ombre di cattedrali. Cerco negli angoli la prospettiva, taglio le pagine dei giornali. Vivo come può vivere uno che aspetta una cattiva notizia. Faccio progetti sul mio passato, scarico cose nell'immondizia. Cammino per ore sui marciapiedi, chiamo ogni tanto la polizia. Entro in locali poco affollati, ordino pizza da portare via. Ho nuovi abiti già sgualciti, tasche larghe e lacci molto stretti. Ripasso i trucchi del mio mestiere, collezionando delitti perfetti. Avessi le lacrime del tuo dolore, avessi le lacrime per il mio, vorrei rimorsi e dico che mi pesa la compassione di nessun Dio. Fossi la prossima consolazione, fossi partecipe del tuo tormento, fosse un'ipotesi di primavera, cielo di nuvole in movimento. Avrò le dita di un medico chirurgo, il cuore di un monaco cosmopolita. Vorrei tagliarmi e dopo tagliarvi tutti, scambiarmi la vita con la ferita. Tu sei la scena del mio massacro, io sono il buco della serratura. Voglio il cordoglio del mio avvocato per confessare la mia paura. Scrivo da un posto dove non c'è nessuno, solo silenzio e ombre di grattacieli. Cerco negli angoli la prospettiva, taglio le pagine dei Vangeli.